Scuola in controluce. Al momento lavorano 18 ore alla settimana. Nei progetti del governo potrebbero arrivare a 24, forse anche a 21, come emerso nel fine settimana. Stiamo parlando delle ore di lavoro degli insegnanti delle secondarie di primo e secondo grado. Il fatto ormai lo conoscete davvero tutti. Nella legge di stabilità si ipotizza proprio questo, che prof lavorino di più a pari stipendio per consentire risparmi che potrebbero superare i 700 milioni di euro. All'annuncio è seguito il putiferio, come del resto era prevedibile. Tutti i partiti che sostengono il governo lo hanno invitato a ripensarci. Del resto non dimentichiamo che ci stiamo anche avviando alla campagna elettorale, quindi nessuno vuole cercarsi grane in questo momento. E poi naturalmente ci sono loro, gli insegnanti, che nel fine settimana hanno assediato il Ministero della Pubblica Istruzione a Roma. Allo scientifico Talete di Roma hanno deciso una settimana di didattica essenziale. Poi sono previsti flash mob, ci sono già raccolte di firme nelle scuole, senza dimenticare lo sciopero di tutto il mondo della scuola dopodomani. Insomma, come dicevamo, il putiferio. Allora salutiamo un insegnante, salutiamo Pietro Licausi. Buongiorno Licausi. Buongiorno, buongiorno. Allora, a voi. Lei è un insegnante. Per la mia voce è quella che è, quella di un insegnante che insegna 18 ore. Alla 18 ore, quindi sono sufficienti per farle andare via la voce, insomma. È un insegnante di lettere al liceo scientifico Cannizzaro di Palermo, ma noi l'abbiamo chiamato perché ha formulato una petizione dal titolo "No alle cattedre di 24 ore, fermiamo il ministro Profumo", che gira online da parecchi giorni. A quante firme siamo arrivati? Secondo l'ultimo collegamento siamo già a 48.000 firme, 48.000 e passa. 48.000 firme. Licausi, però sono in molti a pensare che in realtà questo orario non dovrebbe essere intoccabile. Fra questi c'è Attilio Oliva, presidente dell'associazione 3L, che pure però solleva dei dubbi sul modo in cui il governo sta agendo, anche sul fatto che stiamo vedendo spesso degli annunci poi dietro fronte. Allora Licausi, la invito a sentire con me l'intervento di Oliva, poi ne parliamo insieme. Beh, non mi faccia giudicare il comportamento di chi ci governa, perché è complicato. In questo momento lavorano tutti sotto pressione di un'emergenza grave che si è determinata per anni di non decisioni. Adesso forse se ne prendono troppe e molto velocemente, e probabilmente a volte si fa anche qualche sbaglio. A volte si fanno delle cose molto buone, come nell'ultimo periodo sono state anche fatte. Comunque certamente questa idea di aumentare l'orario degli insegnanti da 18 a 24, senza parlare se erano di cattedra, di straordinari, per quali fini, e senza precisare se erano remunerate, non remunerate, eccetera, almeno queste sono le cose che sono uscite dalla stampa, è stata un'uscita incauta, nel senso che, non meglio precisata, ha giustamente determinato, a mio avviso, delle reazioni da parte del mondo degli interessati. Detto questo, il problema sostanziale però resta, ed è quello uno fondamentalmente, che delle ore in più di straordinario per dare flessibilità al rigido orario delle 18 ore che attualmente si pratica è fondamentale e assolutamente necessario per evitare che si creino queste figure di supplenti chiamati per un'ora, due ore in una scuola e nell'altra, che a loro volta determinano la continua crescita del numero dei precari. Quindi, in conclusione, quello che si deve cercare, a nostro avviso, è di dare flessibilità all'orario di lavoro, di consentire che tutti gli insegnanti debbano, se richiesti, fare uno straordinario, naturalmente limitata a un certo numero di ore annue, che so io, 30-40 ore all'anno, che siano possibilmente gestiti dai presidi secondo le esigenze e le urgenze delle scuole, che siano pagati, perché chi fa dello straordinario deve essere anche pagato, magari anche più che le ore normali, ma che nessuno possa dire no allo straordinario, come oggi invece avviene, perché oggi se il preside chiede un'ora di straordinario insegnante, sta all'insegnante decidere se la fa o non la fa, e nella 90% dei casi dice che non la fa perché è animato da uno spirito anche buono di favorire, di non levar lavoro ad altri, ma questo determina quella follia del precariato, determina la follia di un numero di insegnanti che in Italia è superiore a tutti i paesi europei, determina la follia di una scuola che costa tanto con insegnanti che guadagnano poco. Ecco, lei è a Parigi per una riunione proprio all'OCSE, allora la mia domanda è questa: lei che ha uno sguardo sull'Europa, è vero che i nostri insegnanti prendono meno della media europea ed è vero che già lavorano come la media europea? No. È vera una cosa e non è vera l'altra. Allora, è vero che gli insegnanti italiani hanno uno stipendio più basso della media europea, però lavorano meno della media europea. Se si controllano le ore contrattuali, però la differenza dello stipendio, che apparentemente è 15-20%, si riduce al 5-10%, perché lavorano appunto delle ore in meno. Più lavoro dunque, ma retribuito e possibilmente gestito dai presidi. Questa è l'opinione di Attilio Oliva dell'associazione 3L. E noi allora risentiamo Licausi. Licausi, allora, se vi pagassero di più, sareste disposti a lavorare più ore? È questo il punto? Non mi convincono in questo discorso. Il primo che mi può convincere è che lo straordinario sì, ma pagato, è chiaro. Le 24 ore che c'erano richieste, quindi le 6 ore in più, di fatto non sarebbero state pagate, erano a parità di salario. Di questo se ne può parlare. Il precariato è fisiologico, il precariato non è un dramma, ed è fisiologico che ci sia il precariato nel sistema scolastico italiano, così come è fisiologico che una squadra di calcio abbia una panchina di giocatori per sostituire i giocatori che si vanno infortunando nel corso della partita. I precari sono dunque sì necessari. Gli insegnanti lavorano di meno, anche su questo punto dovremmo riflettere, perché noi stiamo parlando soltanto delle 18 ore di didattica frontale. Dietro queste 18 ore di didattica frontale c'è un sommerso. Certo, c'è il lavoro al pomeriggio, ci sono i compiti in classe da correggere, molti fanno anche insomma delle ore in più sicuramente, però insomma c'è oggettivamente un problema derivante dal fatto che ci sono molti giorni di ferie d'estate, eccetera eccetera. Ci fa un esempio pratico di perché assolutamente non è possibile lavorare 24 ore? Sui giorni di ferie anche lì dobbiamo stare attenti, perché innanzitutto c'è un mese di luglio che è dedicato agli esami di maturità. È vero, li fanno alcuni, altri no, e sono sicuramente sottopagati. È anche vero che ormai nei mesi di agosto o negli stessi mesi di luglio la gran parte delle scuole attivano dei servizi, anch'essi spesso sottopagati, di ripetizione e potenziamento per gli esami di settembre, cioè per gli studenti che sono stati rimandati. Quindi anche su questo mi pare certo. Che la rappresentazione pubblica del lavoro dell'insegnante dovrebbe essere rivista. Teniamo conto, sì, è vero, ci sono gli insegnanti fannulloni, chiamiamoli così, quelli che vanno in classe a scaldare la cattedra anziché il banco. Sì, improvvisando la lezione senza prepararla. Anche questi insegnanti, comunque, contiamo che per 18 ore di lezioni frontali ce ne vogliono almeno altrettante di preparazione dei materiali didattici. Beh, insomma, non per tutte le materie. Comunque, Valentina Prea, abbiamo al telefono assessore regionale all'istruzione della Regione Lombardia. Assessore o ex assessore? No, assessore riconfermata, e ho avuto anche ad interim l'occupazione e il lavoro, quindi un super assessorato, ma bene. Va benissimo, ce la farò. Bene, allora come al solito farò del mio meglio. Grazie. In bocca al lupo. Allora, Aprea, lei come la pensa? Perché insomma ci avevate un po' provato quando era sottosegretaria a tempi del Ministero dell'Istruzione di Letizia Moratti, poi lei non è nuova, imprese anche coraggiose, poi giudicare infatti, positivamente guardi. O negativamente, grazie. Ci aveva provato in Lombardia appena arrivata. Arrivata ad andare su un tema caldissimo, il reclutamento regionale, la chiamata diretta dei docenti, non avrà a questo punto tempo sicuramente per politiche così dirompenti, però lei se potesse in Lombardia li farebbe lavorare di più gli insegnanti? Non va messo ovviamente su questo piano, perché da anni propongo di rilanciare la professionalità dei docenti. Io voglio insistere su questo concetto: i docenti non sono impiegati, e quindi se si parla di professionalità si deve parlare anche di progressione di carriera, di differenziazione dei ruoli, e tutto questo deve comportare anche un aumento dell'orario di lavoro, legato però a una migliore condizione economica per funzioni di staff, azioni di alternanza scuola-lavoro, tutoraggio, personalizzazione, interventi di personalizzazione. Insomma, mentre l'obiettivo da perseguire oggi è sempre più urgente, è quello di valorizzare i docenti per una organizzazione più strutturata delle scuole e per un rilancio della loro azione, il governo va nella direzione opposta, con l'aumento dell'orario di lavoro del 33% a parità di stipendio. Ma sì, se questa è la cosa proprio inaccettabile. Questa operazione mortifica ulteriormente una classe docente considerata ancora solo dal punto di vista quantitativo. Io credo che il passaggio importante sia quello proprio da una logica fondata sulla quantità, quindi il numero degli insegnanti, sì, il numero delle ore, ad una logica basata sulla qualità. Assolutamente. Ecco, vanno allora, però a questo punto, al punto in cui siamo, in bocca al lupo, la devo lasciare in bocca al lupo per il suo ministro Profumo ritiri questa norma. Assolutamente, questa è la richiesta di Valentina Prea, assessore regionale all'istruzione della Regione Lombardia, riconfermata, ci ha dato la notizia in diretta. Scuola in controluce torna lunedì prossimo alle 13.30, domani alle 13.30 Italia in controluce.